per utilizzare ai fini fiscali, e non mi riferisco a quelli penali che hanno altre regole, questo tipo di informazione, le informazioni devono pervenire secondo quelle che sono le regole dello scambio di informazioni a livello internazionale e quindi secondo le convenzioni che abbiamo con i vari paesi. Quindi l'acquisizione deve essere legittima da un punto di vista amministrativo fiscale. Tutto ciò che può pervenire all'Agenzia delle Entrate diversamente fuori da questi canali è un qualcosa che l'Agenzia delle Entrate può utilizzare come spunto per avviare delle indagini, per acquisire poi delle prove secondo le regole e di conseguenza utilizzarli. La sostanza è che non si sfugge, però la sostanza è anche che, come dire, per noi è essenziale il rispetto delle regole.